In questo mercoledì 24 ottobre, uno sguardo ai titoli, il Sole 24 Ore, si riapre il dossier sul fisco, via il tetto sulle detrazioni, dunque legge di stabilità in discussione. Poi la vicenda Finmeccanica è il titolo d'apertura per molti quotidiani, per il Corriere della Sera Finmeccanica indagato Scajola, Repubblica le tangenti di Finmeccanica, mentre il Messaggero Finmeccanica affari e tangenti, il Fatto Quotidiano tangenti Finmeccanica le telefonate di Berlusconi, corruzione Scajola indagato, così apre il secolo XIX, mentre Avvenire a un'intervista al ministro dell'interno Cancellieri, la terra dei fuochi non sarà più sola, continua la campagna i fuochi e in Campania, la campagna sui fuochi in Campania, non è un gioco di parole, sulla regione Campania che Avvenire segue da tempo. La Stampa, manovra scontro Grilli Bersani, il Giornale, casta l'ultima furbata e la legge sulla libertà di stampa che vede protagonista soprattutto Sallusti in un attacco duro verso i giudici che lo hanno condannato. Libero, tolgono soldi ai ciechi per far giocare la Melandri, questo è il titolo d'apertura, lo vedremo tra poco. L'Unità, Renzi passa alle vie legali, la vicenda primaria, mentre il Manifesto, server dello Stato, è la vicenda di Anonymous che ha fatto un blitz di hackeraggio nel sito della polizia svelando 4.000 persone sotto controllo da parte della polizia, per l'appunto, soprattutto Notav. Allora, come detto, il titolo di apertura di prima pagina di Libero è questo su Giovanna Melandri, che è stata nominata presidente del Maxi, che ieri è stata confermata, ha detto prenderò 90 euro l'anno, non ho capito bene perché questa cifra, 90 euro, cioè praticamente nulla, mi dimetto dal Parlamento anche se non è dovuto, ma Libero ha questa notizia in prima pagina, firma Franco Bechis, che messa così fa un po' impressione, tolgono soldi ai ciechi per far giocare la Melandri. E vediamo di cosa si tratta secondo Libero. Nella legge di stabilità che taglia fondi a tutti, compresi gli enti culturali, spunta un regalo per il museo che andrà a dirigere l'ex ministro, 6 milioni di euro. Lorenzo Ornaghi aveva già confezionato un bel regalino per Giovanna Melandri, scrive Franco Bechis, 4 milioni di euro di contributo del Ministero dei Beni Culturali a quel Maxi sulla cui cima è stata appena dirottata la deputata del PD. Una somma circa tre volte superiore allo stanziamento ordinario previsto dal 2011. Ieri abbiamo appreso che il regalo sarà ancora più grosso, 6 milioni di euro, lo ha annunciato la stessa Melandri, gongolando, me lo ha promesso lui. Solo che, secondo Bechis, secondo Libero, nella stessa legge di stabilità si taglia invece tantissimo da altre parti. Per esempio, la dote della Melandri è pagata dai ciechi d'Italia, a loro sono stati tagliati 2,6 milioni di euro che erano destinati nel 2012 alla biblioteca per ciechi Regina Margherita, meno 1,5 milioni rispetto al passato, oppure al Centro Nazionale del Libro Parlato, tolto un milione di stanziamento, al Centro del Libro Parlato di Feltre, 121.000 euro in meno. Un centinaio di migliaia di euro è stato preso invece dai contributi stanziati per la diffusione della cultura ebraica. Al Museo Nazionale della Shoah, ad esempio, arriverà un contributo di 64.000 euro in meno rispetto alla spesa del 2012. Insomma, chissà quanto saranno felici le istituzioni culturali ebraiche di contribuire perfino finanziariamente alla nobile causa, trovare una poltrona alla Melandri. Ecco, vabbè, il gioco è un po' sottile, non è che hanno tolto lì per dar di là, però Bechis fa i calcoli un po' della legge di stabilità e dice, sapete che c'è? Da queste parti hanno sforbiciato e invece 6 milioni per il Maxi sono stati trovati. Tagli ai ciechi e anche ai carabinieri, alle associazioni dei carabinieri, per far giocare Giovanna, questo è il titolo di Libero. Certo, non si placa la polemica su questa vicenda, come non si placa la polemica sulla vicenda dei Chiusi, il termine inglese selettivi, ma anche secondo una traduzione più colloquiale schizzinosi, che sembra ormai davvero così inchiodare a una parola al ministro Elsa Fornero. Dica Ciusi, oggi per esempio titola Pubblico in prima pagina con la foto di Elsa Fornero. Ebbene, il Giornale che cosa fa? E anche il Buongiorno di Gramellini, sì, sulla Stampa, si dedicano a dei figli dei ministri. Gramellini al figlio, ha un figlio in particolare, quello del ministro Cancellieri, che ieri abbiamo detto ha preso una liquidazione milionaria, ma tra poco ci arriveremo. Mentre Paolo Bracalini sul Giornale, a pagina 9, quei figli dei ministri poco schizzinosi, i loro pupilli cosa fanno? Paolo Bracalini è andato un po' a scoprire cosa fanno i figli dei ministri. In un paese dove il 78% dei lavori si trova per segnalazione, dato Eurostat, i figli di banchieri, professori, rettori, presidenti di CDA, prefetti, manager pubblici, tutti futuri e attuali ministri, non hanno tempo per essere chiusi. E allora il lavoro arriva coi fiocchi. Per esempio Maria Maddalena Gnudi. Il padre, il ministro Gnudi, le ha proposto di diventare socio del prestigioso studio Gnudi, il suo, e lei ha accettato. Approdo sicuro anche per Eleonora Di Benedetto, avvocato 35enne, approdata in uno dei più importanti studi legali di Roma, lo studio Severino, quello della madre, Paola Severino. Ma non tutti i brillanti figli si impiegano indoor. La figlia del ministro Profumo, Costanza Profumo, brillante architetto, laureata al Politecnico di Torino, figlia del rettore del Politecnico di Torino Profumo, ex rettore, ha lavorato nello studio newyorkese dell'archistar Daniel Libeskind, ora pare sia a Rio de Janeiro. Carlo Clini, figlio del ministro dell'Ambiente Corrado, è rimasto invece in Europa, dove coordina progetti per la regione Veneto. O ricordate Carlo Malinconico, ex sottosegretario tecnico che si è dimesso per una vacanza pagata da altri? Suo figlio Stefano ha fatto pratica nello studio Malinconico del padre. Poi ha trovato lavoro al Ministero dell'Ambiente, dove era direttore generale Corrado Clini, l'attuale ministro. Insomma, e così via. Brillante carriera per un altro rampollo, Luigi Passera, junior. Dopo la laurea in Bocconi si è occupato di marketing per la Piaggio, società di Colaninno. Ora passa da giugno a un impiego di tutto rispetto presso la multinazionale Procter & Gamble. E poi c'è il figlio della Cancellieri. Il figlio della Cancellieri, per l'appunto, ha preso questa liquidazione, come scrive Gramellini, un sistema in liquidazione, in prima pagina della Stampa. Ieri ne abbiamo parlato, una liquidazione vale a dire 3 annualità. Ha lavorato 14 mesi per Fonsai, ha preso credo 3,6 milioni di euro. Nel dimettersi dopo appena 14 mesi, Pier Giorgio Peluso, scrive Gramellini, ha ottenuto una liquidazione di 3 milioni e 600 mila euro. 3 milioni e 600 mila euro per 14 mesi. Era una clausola del suo contratto. Nel mondo della finanza è normale, ma è quel mondo a non essere più normale. Peluso è figlio della signora Cancellieri, ministro di un governo che ha fatto della sobrietà la sua bandiera, oltre che un suo indubbio merito. Ma la finanza respinge qualsiasi appello a rientrare nei ranghi del buonsenso, vive da un'altra parte che non è la nostra, obbedendo a logiche che non sono le nostre. E quando il sistema stava per fallire, è stato tenuto in piedi con robuste iniezioni di denaro, sottratto ai nostri risparmi, ci saremmo aspettati almeno un cambio di stile. In fondo i politici lo hanno fatto, hanno ceduto il passo ai tecnici, invece i finanzieri, oltre ad aver rinunciato a svolgere il loro compito storico, prestare soldi alle imprese affinché possano assumere lavoratori, hanno continuato imperterriti a costruire piramidi di denaro virtuale al cui interno hanno stipato denaro reale, quello a cui attingono in esclusiva, con immutato slancio e totale mancanza di pudore. Chiunque capisce che si tratta di un sistema impazzito, di un treno senza conducente che viaggia sparato contro un muro. Ma il giorno del cataclisma non spargerò una lacrima, anche perché non ce ne sarà il tempo, visto che i cocci di quel treno dovremo rimetterli insieme noi. Così il Buongiorno di Gramellini, sulla Stampa il titolo è un sistema in liquidazione. 24 mattino. Siamo qui allora alle 7:36 minuti, continuiamo la lettura dei giornali ripartendo sempre dalla legge di stabilità per il terzo giorno dopo la pubblicità, perché questa legge di stabilità è sempre più sotto attacco e ogni giorno sotto l'attacco parlamentare dei partiti sembra perdere un colpo. Allora, ieri la scuola ormai è stata accantonata alla vicenda dell'aumento delle ore di lavoro, ora c'è tutto il pacchetto fiscale in discussione. Ebbene, come fa sapere il Sole 24 Ore, pagina 7, detrazioni verso lo stop al tetto. Si discute invece sull'IVA, si discute sull'IRPEF, ma scrive Marco Rogari: il dossier fiscale della legge di stabilità è ufficialmente riaperto, anche se il ministro Grilli continua a difendere a spada tratta il provvedimento. Al Ministero dell'Economia si stanno cominciando a valutare opzioni alternative rispetto all'impianto del testo approvato alla Camera. Il capitolo su cui, per effetto del pressing di PD, PDL e UDC, si annunciano maggiori novità è quello di detrazioni e deduzioni. Allora il tetto dei 3.000 euro può di fatto essere considerato già saltato, scrive Il Sole. E anche sulla franchigia, così come del resto sulla retroattività, sono probabili delle novità che potrebbero riguardare anche l'IVA. Due, su questo fronte le opzioni sul tavolo: ricorso a una clausola di salvaguardia collegata alla revisione delle tax expenditures e magari anche al piano Giavazzi, l'aumento di un punto oppure due punti di una sola aliquota dell'IVA, quella del 21%, lasciando invariata invece l'aliquota del 10%. Tutto questo mentre appunto il ministro dell'economia Grilli continua a dire: è una manovra equa, i vantaggi sono per il 99% dei contribuenti. Su questo la stampa titola, c'è anche uno scontro con Bersani, perché Bersani ha detto: io questi numeri non mi risultano, non vedo, abbiamo dei dati differenti evidentemente. Fra taglio dell'IRPEF e altre misure, fa sapere il Corriere della Sera pagina 9, la legge di stabilità per Grilli ha effetti positivi per il 99% dei contribuenti, ha snocciolato anche delle cifre: il beneficio medio pro capite di 160 euro può arrivare a 230 per la fascia di reddito tra i 25 e i 45 mila euro, ma le sue parole appunto non sono apprezzate per esempio da Bersani, che dice: non sono d'accordo. È ardito, ha detto Bersani, affermare che la legge non pesi sulle condizioni di vita degli italiani. E su questo dunque c'è un dibattito in corso, e ci sono anche i retroscena della politica che si sbizzarriscono. Per esempio, per una cena ieri tra Berlusconi e Monti: Berlusconi a cena da Monti, così titola il giornale, ma ora è tentato di mollarlo. Il Cavaliere contro la legge di stabilità, anche lui dice: è troppo recessiva, o la cambiano o non la votiamo. E allora il retroscena su Repubblica, firma Francesco Bei, a pagina 3, vede un premier, Mario Monti, al quale vengono attribuite queste parole: per noi la legge di stabilità è equilibrata, ma se la vogliono tanto cambiare che almeno si mettano d'accordo tra loro ed evitino critiche sterili. Insomma, l'idea di un governo comunque pronto a capire che l'attacco, d'altronde, a tenaglia dei vari partiti in Parlamento è sempre più stringente, e quindi bisogna cedere su più fronti. Il leader della Lega, Maroni, ha detto addirittura che secondo lui il governo non arriva a dicembre, il governo non mangerà il panettone, sì, con questa frase che spesso è riferita più che altro agli allenatori di calcio che vengono esonerati prima di Natale. Non mangerà il panettone, non supererà il Natale, questa è la previsione politica di Maroni. Beh, certo, il Corriere della Sera, pagina 10, mette in un trafiletto anche ciò che Mario Monti ieri ha detto in una mostra, inaugurando una mostra su Tommaso Moro. È arrivato lì e, riandando al dettato della santificazione, ho visto che è patrono anche di coloro che, avendo l'ardire di avvicinarsi all'attività di governo senza essere politici, sono doppiamente bisognosi della benedizione del santo Tommaso Moro. Insomma, Mario Monti ha detto: abbiamo bisogno, a maggior ragione, della sua benedizione. E quando ci si affida ai santi, e non è la prima volta, la situazione è grama. L'altra notizia sulla quale aprono molti giornali è la vicenda Finmeccanica. L'indagine che coinvolge l'ex ministro Scajola, deputato del Popolo della Libertà, indagato per corruzione internazionale nell'ambito dell'inchiesta su Finmeccanica. E indagato Scajola è ovviamente il titolo che trovate maggiormente ribattuto dai vari giornali. in attesa della procura di Busto Arsizio, scrive Marco Ludovico a pagina 13 del Sole 24 Ore, ecco l'ultima bordata giudiziaria contro Finmeccanica e non sarà peraltro l'ultima. Ieri è stato arrestato tra l'altro Paolo Pozzessere, ex direttore commerciale, oggi senior advisor per la Russia, iscritto nel registro degli indagati per corruzione invece Claudio Scaiola e anche un onorevole Massimo Nicolucci che ne è stato in passato il portavoce. Indagine coordinata dal procuratore Greco, dai PM Piscitelli e Woodcock, nasce dagli accertamenti sul faccendiere Walter Lavitola, i suoi rapporti con Berlusconi, i suoi affari con Panama. L'accusa è quello di aver preso una maxi tangente, ma proprio maxi maxi, tanto che a pagina 2 il Corriere della Sera, nell'articolo di Fulvio Buffi, scrive: c'è chi ancora ricorda la maxi tangente Enimont, no? Quella che venne definita la madre di tutte le tangenti, ve la ricordate? Quella era di 150 miliardi di lire. Beh, oggi nell'inchiesta sulla presunta corruzione internazionale collegata alle commissioni estere di alle commesse estere di Finmeccanica, ne viene fuori una destinata a essere spartita tra l'ex ministro Scaiola, il suo fedelissimo Nicolucci e il ministro alla difesa brasiliano Nelson Jobim, di 550 milioni di euro, quindi non 150 miliardi di lire, in lire di allora fa 1.065 miliardi di lire, 7 volte di più della tangente Enimont, 550 milioni di euro. Questa è l'accusa di tangente che peraltro il cui effettivo pagamento, seppure pattuito, non è poi avvenuto. Queste le carte dell'accusa. Ci sono le intercettazioni, e tra l'altro intercettazioni rispuntano le intercettazioni con Silvio Berlusconi. Per esempio il Corriere della Sera a pagina 3 mette un'intercettazione nell'articolo di Fiorenza Sazzanini tra il manager arrestato Pozzessere e Berlusconi, appunto. In quel momento l'intercettato era Pozzessere, che viene chiamato da Silvio Berlusconi il 7 luglio del 2011 e Berlusconi dice: senti, sono qui col nostro professore il senatore Esteban Caselli, che mi porta una lettera del signor James Seslicki, che è il chairman della Yacht Limited. Vabbè, parlano di affari, una società che dice di avere la possibilità di una vendita di aerei di trasporto fabbricati da voi per 600 milioni di dollari. E Pozzessero: sì, sì, esiste questa possibilità con l'aeronautica indonesiana. Insomma, tornano comunque le intercettazioni. Tanto che il Fatto Quotidiano titola: eccole le intercettazioni con Silvio Berlusconi. E c'è anche un'intercettazione, scrive Guido Ruotolo sulla Stampa, in cui Walter Lavitola sbotta: tu devi rimanere sempre con un po' di pathos, fammi che io il berlusconismo lo parlo benissimo. Insomma, il rischio, ve lo dico, è che il rischio, per qualcuno va bene così, che escano nuove intercettazioni nei prossimi giorni, sempre più compromettenti. Scaiola si difende, fa una serie di interviste incredibile, interviene a Repubblica, interviene al Messaggero, interviene sul Secolo XIX e forse me ne sono persa qualcuna, forse sul Giornale, intervistato un po' da tutti, allibito, ha lavorato per l'Italia, su Repubblica esordisce così Massimo Calandri: onorevole, lei è indagato a sua insaputa, naturalmente. C'è poco da fare gli spiritosi. Questa è la risposta di Scaiola. Di questa storia non so nulla. Io ho fatto solo affari per le aziende italiane. Il ministro brasiliano Jobim l'ho incontrato 3 volte. Con lui c'era Lula. Non ho mai incrociato nella mia vita Walter Lavitola in missioni internazionali. L'onorevole Nicolucci è un nostro parlamentare che conosco molto bene. Insomma, respinge tutte le accuse. Poi Scaiola parla anche della famosa casa. Ah, ma sulla casa al Colosseo ancora insiste. A sua insaputa è proprio il mantra. E da qui sono 2 chicche che vi do dopo le informazioni sul traffico. Scaiola e la casa famosa, il Colosseo, a Repubblica dice: guardate che la gente scherza quando dico a mia insaputa, ma io dimostrerò che ho ragione. Ma la perla la regala al Messaggero, sentite, sulla famosa storia della casa: è una storia assurda, secondo lei, dice a Marco Conti che lo intervista, secondo lei, se io fossi stato a conoscenza che qualcuno stava pagando parte della casa, Avrei fatto intestare l'immobile a me e fatto l'atto al ministero, oppure da vero bandito avrei intestato la casa a una società firmando l'atto altrove? No, guardi, se qualcuno mi considera un farabutto, mi dispiace e mi addolora. Ma cretino, no! Eccolo qui, insomma, continua a dire: se mi considerano farabutto, mi spiace, ma non sono cretino. Se, e poi la frase: se fossi stato a conoscenza che qualcuno stava pagando parte della casa, cioè insiste, quindi Scajola dice: io non lo sapevo, a mia insaputa. E anche al secolo XIX, alla domanda: che fine ha fatto la sua casa che doveva vendere, peraltro? Oh, a Pasqua abbiamo firmato il compromesso, poi si è scoperto che c'era una variante non condonata del 98, abbiamo dovuto rimettere a posto le carte, poi è nata una questione sul prezzo, comunque sono ancora in ballo, ma la vendita è già decisa. E chi la comprerà? Chiede Marco Menduni. Il nome non lo dico, ma è una ricca signora anglo-italiana che abita a Londra e vuole anche una casa a Roma. Questo Claudio Scajola, oggi su tutti i giornali, indagato per corruzione internazionale. Oggi il Sole 24 Ore invece ha un'intervista esclusiva a Klaus Regling, che è il numero uno dell'SM e che dunque è pronto a trasferire alla Spagna 30 miliardi di bond per ricapitalizzare le banche entro fine anno. Il meccanismo di stabilità ha una dotazione di 700 miliardi, il suo presidente Regling, intervistato da Isabella Buffacchi, l'intervista la leggete tutta a pagina 3, dice: aiuti ai grandi senza escluderli dai mercati, dice appunto il fondo ha a disposizione 700 miliardi, 200 sono riservati alla Grecia, Irlanda e Portogallo, 50 per le banche spagnole, dunque quello che rimane è molto. Il fondo è molto solido, ha 700 miliardi di capitale, di gran lunga una base di capitale più grande di qualsiasi altra istituzione internazionale al mondo. E riguardo all'Italia, alla possibilità anche che l'Italia acceda a questi fondi, la mia valutazione dell'Italia, dice Regling, è che lo spread è sceso, il BTP decennale è calato sotto il 5%, questo è molto meglio rispetto a 6 mesi e 12 mesi fa. Penso che le misure fiscali e le riforme del governo Monti stiano mostrando i primi risultati. L'impatto delle riforme strutturali, per contro, non può ancora manifestarsi, ma questo è normale, ci vogliono tra i 2 e i 3 anni per vedere i miglioramenti sulla produttività. E l'Italia ha un problema particolare con la produttività, è stata sotto la media europea nell'ultimo decennio. Sono mancate le riforme strutturali fino a quando è arrivato Monti. L'Italia ora è sulla strada giusta, gli italiani non si devono scoraggiare per colpa della mancanza dei progressi immediati. Arriveranno. Quindi anche dal presidente del Fondo di Stabilità c'è questo augurio. Arriveranno, cari italiani, non scoraggiatevi, le riforme ci sono e tra 2 o 3 anni si vedranno i risultati. Noi, come detto, alle 8:15 ospiteremo l'avvocato che ha fatto partire tutta la vicenda del sisma e che poi ha portato alla condanna della Commissione Grandi Rischi all'Aquila. Sui giornali trovate tanto di questa vicenda, ancora lo sconcerto. C'è anche Umberto Veronesi, oncologo, che da scienziato dice: non è giustizia ma è soltanto una vendetta quella nei confronti della scienza, una vendetta che soddisfa gli istinti peggiori. Certo, ci sono polemiche su questa sentenza, ma sentiremo invece l'avvocato che dal primo giorno ha detto verranno condannati tutti coloro che hanno sbagliato e ora in primo grado ha avuto ragione. Vi segnalo anche un'intervista esclusiva di Avvenire al ministro dell'Interno Cancellieri che parla dei roghi tossici in Campania. Lo Stato c'è, è una campagna che sta portando avanti Avvenire da tempo, intervistata da Vincenzo Spagnolo. Tra l'altro parla del prefetto di Napoli, quello che ha trattato male proprio il prete anticamorra e antiroghi Vincenzo Patriciello. È la prima volta che parla Anna Maria Cancellieri, dice: il prefetto di Napoli ha davvero sbagliato, ma si è scusato, non facciamo il crucifige. Non giudichiamo tutta la sua carriera per questo errore. Tra l'altro Michele Serra dedica al prefetto di Napoli l'amaca, subissato da una tale quantità di critiche. Il prefetto non sa che signore, ovviamente signora, è molto più di prefetto, eccellenza, commendatore, cavaliere, dottore, più di signore non esiste nulla. E anche il ministro Cancellieri, che però vuole chiudere in qualche modo questo incidente, a dire Vabbè, ha davvero sbagliato, si è scusato. Io stessa vedrò tra due giorni Don Patriciello, ma non esageriamo. Ci sarebbe molto da dire anche sulla vicenda Sallusti, che oggi in un editoriale ribadisce infami i giudici che mi hanno condannato, perché la Corte, nella motivazione della sentenza, dice che il carcere non è da escludere perché non è esagerato, perché Sallusti è un delinquente seriale di fatto, cioè visti i suoi precedenti penali. E quindi è un soggetto pericoloso e dunque il carcere non è escluso. C'è Durvalder che è indagato, il presidente della provincia di Bolzano, e vabbè, questo lo trovate anche sui giornali. Tutto il resto che non ho fatto in tempo a leggere ve lo accattate sui giornali, per l'appunto. Dopo il GR delle 8.